Era un intervento sulla relazione del dottor Viganò da un profano della storia delle relazioni internazionali. E, a proposito della struttura e anche del funzionamento del Ministero degli Esteri della Repubblica Sociale Italiana, noi sappiamo dagli studi che sono stati fatti sul corpo diplomatico italiano che dopo l'Unità d'Italia fino all'avvento del fascismo, anche successivamente, la diplomazia italiana ha costituito una sorta di corpo chiuso, abbastanza impermeabile rispetto alle vicende, anche alle vicissitudini politiche, anche ai cambi di governo. L'episodio forse che più può rendere rendere evidente questa continuità è data dalla politica estera del fascismo che eredita buona parte di quelle che erano le linee direttive della politica estera dell'Italia liberale. Il segretario generale del Ministero degli Affari Esteri resta la figura più importante, indipendentemente da chi era il ministro degli esteri. Questo fino alla fine degli anni 20 e anche negli anni 30. Ora, alla luce di questo, e anche alla luce di quanto tu hai detto sulla continuità istituzionale, quella che tu hai chiamato, lo sforzo che era della Repubblica Sociale Italiana di assicurare una continuità istituzionale fra la politica estera della Repubblica Sociale Italiana e quella che era stata la politica estera, le linee della politica estera dell'Italia, ecco, è possibile vedere una continuità di questa politica estera, delle linee della politica estera, non soltanto a livello di proclami ideologici, ma anche di programmi che Mussolini e gli altri esponenti della Repubblica Sociale si ripromettevano, ma anche a livello della struttura istituzionale del Ministero degli Affari Esteri. Noi abbiamo detto che Mantelli diceva che la rete consolare italiana in Francia era crollata e al suo posto erano subentrati esponenti dell'Unione Sindacale Italiana. Allora, il problema che mi pongo io è questo: qual era il rapporto fra i regi diplomatici, cioè i rappresentanti di quella che era stata il Ministero degli Esteri italiano, la diplomazia italiana e la Repubblica Sociale Italiana? Tu hai citato il caso dell'Ungheria, dove c'erano due rappresentanze diplomatiche. Ecco, accade sempre questo, in altri paesi cosa accade e quali sono i rapporti poi, soprattutto con i regi diplomatici? Non solo, vediamo che a Lubiana, alla luce di quanto tu hai detto, è l'ambasciatore della Repubblica Sociale Italiana, il segretario del fascio. Ecco, allora, l'altro problema è il reclutamento dei diplomatici della Repubblica Sociale Italiana e anche la figura che all'interno della Repubblica Sociale Italiana viene ad assumere il direttore generale del Ministero degli Esteri, che tu hai citato in fondo, mi sembra era una figura di un politico, non era un ministro plenipotenziario come era nella tradizione e come è tutt'oggi nella tradizione del Ministero degli Esteri. E l'ultimo problema, sempre legato alla struttura e funzionamento della Repubblica, del Ministero degli Esteri della Repubblica Sociale Italiana, è cosa resta del corpo diplomatico della Repubblica Sociale Italiana dopo il 25 aprile. Cioè, che fine fanno queste persone? Se erano state reclutate, chi resta e chi invece va via? Ecco, erano problemi più che altro che attenevano al funzionamento e alla struttura del Ministero degli Esteri. Grazie. Grazie, io direi che poi rispondiamo alla fine, se no la cosa si spezzetta troppo. Forse Jens Petersen. Ich möchte nur auf zwei Probleme verweisen, zu denen ich selber auch gar keine Lösung weiß, aber die mir bei den Vorträgen heute Morgen und auch heute Nachmittag, die mir sozusagen den Denkhorizont mit hineingekommen sind. Und ich führe damit nur eine Diskussion fort, die ich zum Beispiel mit Frau Rieder schon seit längerem geführt habe. Die Frage, wenn man sich diese Rekonstruktion anschaut, etwa der Wirtschaftspolitik oder in dem Vortrag von Mantelli, der italienischen Arbeiter in Deutschland, das sind Rekonstruktionen, die weitgehend auf einem schriftlichen Bestand aufruhen, die Realität widerspiegeln, wie sie sich als Norm in den Akten abbildet. Und zwar einmal als Planung, als Programm, was sein soll, und dann punktuell als das, was möglicherweise geworden ist in Form von Daten, Statistiken etc. Die Frage ist immer, wie groß ist die Distanz zwischen dieser Norm, die man da aus den Akten gewinnt, und der wirklichen Realität? Und ich glaube, gerade diese kritischen Jahre 43 bis 45, da ist die Distanz zwischen Norm und Realität enorm groß. Und etwa in dem demnächst erscheinenden Band von Klinkhammer, die überwiegend auf deutschen Akten aufgebaut ist, ist ein sehr schönes Kapitel drin über die Realität, weitgehend auf italienischen Akten, über die Realität etwa dieses Beziehungsgeflechts zwischen deutscher Besatzungsmacht und italienischer Wirtschaft im Raum Genua. Und da kann man sehr schön sehen, wie in diesem konfligierenden Nebeneinander verschiedener Instanzen auf deutscher Seite und b, dem präponderanten Interesse an deutschen Interesse an Produktion für die italienische Seite, in diesem Moment also für die italienischen Industriellen, doch ein sehr breiter Handlungsspielraum übrig bleibt, in dem sie zwischen diesen verschiedenen deutschen Instanzen manövrieren können. Ich glaube also, wir müssten sehen, dass wir bei all diesen Rekonstruktionen sozusagen die Wirklichkeit auch noch von einer anderen Seite zu fassen bekommen. Durch, unter Umständen durch Oral History oder durch Check-ups, Gegenchecks von mit Dokumenten von anderer Quelle her. Zum Beispiel bei dem Vortrag von Frau Rieder heute Morgen habe ich mich nochmal sehr intensiv gefragt, wie auch schon bei der Lektüre ihrer Magisterarbeit und ihrer späteren Studien, wie hat denn damals eigentlich die Wirklichkeit ausgesehen? Und ich habe den Eindruck, dass die Wirklichkeit da in vielen Punkten erheblich anders ausgesehen hat, als sie sich dort in den deutschen Akten widerspiegelt. Ja, vielleicht das erstmal. Grazie. C'era Mantelli che aveva chiesto la parola. Ma io volevo fare una domanda che francamente è un po' un'obiezione alla relazione di Viganò, nel senso che io ho trovato molto interessante in quanto ricostruzione di un atteggiamento del gruppo dirigente della RSI, che a questo atteggiamento fa corrispondere però a questo atteggiamento qualcosa che si può chiamare politica estera, mi sembra francamente un po' una forzatura, nel senso che tutto sommato, questo è un altro elemento di continuità se vogliamo, già prima dell'8 settembre noi troviamo nei discorsi di Mussolini pubblici, privati, in una fonte come il Diario di Ciano per esempio, tutta una serie di atteggiamenti mussoliniani per cui Mussolini tende a comportarsi un po' come la mosca cocchiera dell'asse, se mi passate questa definizione, cioè come colui che appunto stando sopra a un grande destriero, però una piccola mosca cerca di guidare, dice io lo guido. E queste che sono indubbiamente importanti per quanto riguarda la ricostruzione dei rapporti intergovernativi e politici fra i due stati, però di fatto poi si traducono molto, molto spesso queste velleità mussoliniane in praticamente nulla. Faccio un esempio che ho verificato personalmente. Nel giugno, pare il 4 giugno, 41, si trova scritto nel diario di Ciano, il Duce ha deciso di sospendere gli invii di manodopera in Germania. Renzo De Felice tra l'altro ha preso per buona questa affermazione e ne ha scritto una serie di pagine e l'ha sottolineato una serie di pagine basandosi oltre che su Ciano su uno dei diari, sul diario del ministro questo momento un buco di memoria quello che fa un diario che si firma diario di un milanese ministro di sua maestà nel governo Mussolini, che mi sembra il massimo del nicodemismo proprio, tremendo. Gorla, grazie, avevo un buco di Gorla conferma questa cosa. Problema che però in altri diari, come il diario di Bottai, questa cosa qui, c'è un altro tipo di cronaca e anche il diario di Ciano, rispetto quando parla di un certo consiglio dei ministri, non accenna a questa cosa. Problema, quando Ciano scrive il Duce ha deciso di sospendere gli invii in Germania e una settimana prima c'è un diario che sostiene che il Duce ha fatto questa cosa, arriva a Mussolini una lettera di Ricci, ministro della cooperazione, dice: caro Duce, come vi ha appena detto Ciano, tu hai autorizzato altri 100.000 operai in Germania, e gli arruolamenti cominciano nei fatti, poi ne vanno 50.000 perché non li trovano. Come dire, prendere per buone quelle che sono una serie di dichiarazioni e trasformare, che sono indicative di un atteggiamento, e trasformare in dati di fatto, mi pare, almeno in questo caso, è stato un colossale errore, sarebbe un colossale errore. Quindi volevo un momento capire come se tu eri d'accordo su questa lettura o no. E rispondo subito in due parole. No, poi... aspetta un momento. Cioè, adesso c'è, su questo specifico tema ci sono altri che vogliono, che desiderano intervenire? Se no, proviamo a dare subito una risposta. Forse era stata coinvolta però anche Florida da Petersen, sì, in qualche modo, o no? Jens, tu ti rivolgevi anche a lei particolarmente, oppure è un'osservazione generale di metodo, insomma? Ho capito, allora direi che diamo a noi il suo microfono in modo che... Ma io direi che l'osservazione è estremamente pertinente ed è vera. Infatti noi in questo genere di ricerche non andiamo a vedere tanto, perché è un assurdo pensare ad un peso politico di queste affermazioni, ma studiamo qual è il clima che le ha generate e quale pensiero le ha generate, come si potesse ancora in quella situazione, torno a dire gennaio 1945, ritrovarsi tutti gli esponenti dei partiti fascisti nazionalsocialisti d'Europa a discutere di come sarebbe stata messa a posto l'Europa dopo l'immancabile vittoria. Ora, questo è da un senso del clima, del moto di idee che c'erano. È chiaro che si fa della metastoria, non della storia dei fatti, ma di in seconda battuta, per così dire. Però c'è un aspetto sotto questo, quindi questo inconsistenza che fa cadere la persona sul fondo. Su questo fondo c'è però qualcosa di concreto. Queste affermazioni di carattere ideologico erano, dico ancora, supporto ideologico per riaffermare che chi le faceva aveva diritto di partecipare con piena parità a questo ordine europeo. Erano il tentativo di mettere le basi, di far accettare delle basi per una vittoria che comunque si vedeva che non ci sarebbe mai stata, ma per dire che questi paesi c'erano stati, insomma, in questa battaglia, e che non è che la Germania aveva perso per colpa loro o che aveva vinto solo per meriti suoi. Perché questo era il problema, e qui una relazione dell'addetto aeronautico a Berlino è molto chiara: non ci fanno ricostruire l'esercito, così se le cose vanno male avranno perso perché noi non c'eravamo, se le cose vanno bene l'hanno vinta da sola. Questo dice l'addetto della Repubblica Sociale Italiana Mussolini il 2 aprile 1944, fa un'analisi che è perfetta. E Mussolini sottolinea pesantemente queste parole, perché sa che tutta la verità è contenuta in quattro righe. Il suo governo è tutto descritto da questo rapporto. Però non è un uomo che abbandona la scena, sia non per ambizione personale, ma perché è costretto in parte perché ha questo gusto del protagonismo, in parte perché ha capito che qualcosa può forse ancora fare per il paese. Ambizioni personali non ne aveva proprio più in quell'autunno del 43. Si è trovato in mezzo, e come in tutta la sua vita, quando si è sempre trovato in mezzo a qualcosa, ha giocato su tre tavoli contemporaneamente, non detto in maniera spregiativa, ma come tattica. Allora, da un lato, davanti a tutti si riaffermava l'unità di questo tripartito. Poi si costituivano gli uffici speciali per raddrizzare le cose che i tedeschi stavano stortando da una parte e dall'altra. Contemporaneamente si dibatteva del nuovo ordine europeo, ma lo si faceva solo con la consapevolezza di rovesciare questo atteggiamento germanico del tradimento dell'Italia. E infatti la parola d'ordine di quell'ufficio ZA che doveva girare, era mascherato quell'ufficio da mostra intitolata Noi non abbiamo tradito, ma sulla carta intestata di questa mostra Noi non abbiamo tradito, patrocinata ufficialmente dal Ministero della Cultura Popolare, non c'è il numero di posta civile del Ministero della Cultura Popolare, c'è il numero di posta da campo 704, Partito Fascista Repubblicano. Quindi cosa significa questo? Noi non abbiamo tradito, state attenti, non ci potete portare via la manodopera, i macchinari, le industrie, dicendo che l'Italia ha tradito. È una politica del, come dire, della tattica del meno peggio. Oramai le cose vanno male, noi siamo prigionieri dei tedeschi, la domanda è cosa possiamo fare per far sì che le cose vadano meno male di come vanno. È una cosa riduttiva, è chiaro che non è più politica estera, non è quasi più neanche relazioni internazionali. È vero quello che dice Mussolini a Mazzolini all'inizio, salvare il salvabile. Una consapevolezza. I dossier che si portava a seguito quando ha lasciato Milano nell'aprile 45 erano certo scelti anche un'antologia a proprio favore, ma erano costruiti per dimostrare, costruiti forse eccessivo, preparati per dimostrare questo, salvare salvabile. E certo politica estera non ce n'era più, non si può certo dar retta poi a queste fantasticazioni che c'erano. Ecco, e lì una domanda estremamente pertinente anche questa sul ministero. Il ministero viene raffazzonato in qualche maniera, cioè le adesioni anzitutto aderiscono su tutto il corpo diplomatico, è stato anche un lavoro di mezza statistica che ho svolto con i nominativi che c'erano e con le date di ingresso in diplomazia. Due soli ambasciatori. Capasso Torre è stato capo dell'ufficio stampa di Mussolini a Palazzo Chigi negli anni 20. Anfuso è stato portato in diplomazia da Ciano. I ministri plenipotenziari che aderiscono sono tutti messi in carriera nel 1928, i cosiddetti ventottisti, cioè uomini del partito messi nella carriera diplomatica. Gli altri, gradi minori, è tutta gente cresciuta nel ministero fascista. Ma i vecchi uomini del liberalismo, gli ambasciatori che sono nati sotto Giolitti come carriera, non aderiscono, è una defezione generale. Nasce quindi un organismo che ha un direttivo limitato di poca gente e cosa fa? Recluta sul posto il personale che c'è, cioè come direttori generali al ministero vengono messe delle medaglie d'oro al valor militare. Bravissimi combattenti, gente che ha dato anche sangue per la causa, ma che non capisce niente di diplomazia, ma ci sono solo questi sotto mano. Vengono messi giornalisti, personale avventizio, in qualche caso all'estero, in Germania, dei grossi commercianti che hanno conoscenza dell'ambiente, vengono messi in camicia nera a fare il console, perché conoscono bene l'ambiente, i cittadini, non si fa più politica. Oramai le relazioni internazionali, quelle grandi tra stati, non ci sono più all'estero, il console pensa al cittadino che è dietro i reticolati del campo di internamento, al cittadino che ha bisogno di un documento dalla Corte d'Appello di Brescia e siccome Brescia è sotto la Repubblica Sociale non è che aderisce ma deve chiedere a Brescia quel documento e allora sarà il console della Repubblica Sociale che lo chiede. Al cittadino che magari è in Thailandia o Hong Kong e l'unico centro in cui riconosce l'Italia in quei paesi è il fascio repubblicano perché non c'è nient'altro. Piaccia o non piaccia, il partito fascista repubblicano è l'Italia, tout court. Poi, altra cosa, le adesioni all'estero. È chiaro che il cittadino italiano che non vede la guerra civile, il sangue sulle strade, ma che all'estero ricorda solo la potenza, la grandezza dell'impero, l'Italia che gli ha dato una dignità, aderisce in massa. In Italia il partito fascista repubblicano è minoritario, all'estero è maggioritario. Le adesioni sono per il totale di 200 fasci repubblicani aperti in giro per il mondo e siamo in un'Italia che si sta riducendo alla pianura padana. Se ci pensiamo c'è questo straordinario paradosso di una testa che si rimpicciolisce e un corpo che invece è ancora grande fuori d'Italia. E quindi questo personale reclutato fuori dai ranghi, irregolare in tutte le maniere, alla fine della guerra è licenziato in massa. I diplomatici di carriera, già vecchi di per sé, già compromessi, vengono tutti licenziati. Il resto del personale non si fa più trovare, già in Italia, immaginiamoci all'estero, e finisce tutto in nulla. Non c'è una continuità. Come non esiste una continuità di politica estera, perché questo esperimento durante la Repubblica Sociale è un unicum, non è la continuità neanche col fascismo di regime come politica estera, per certi versi, e finisce. È un elemento di separazione tra la politica estera italiana, la grande politica estera. e di continuità profonda, impegnata, grande continuità nella tutela del cittadino italiano, dei commerci. Perché in questo periodo bisogna ragionare non nel senso di relazioni col governo della Romania, ma con le ditte che avevano interesse in Romania o in Spagna. È lì che bisognava intervenire, non raccontando dell'asse del tripartito, ma dicendo dell'ala Littoria o dell'azienda Minerali Metallici ad Atene, cosa ne facciamo? Chi si prende in carico questi interessi? Dei medicinali che erano prodotti solamente nei paesi nemici delle Nazioni Unite, come facevano ad arrivare nella Repubblica Sociale se non tramite le agenzie di Lisbona e di Madrid? Attraverso questi giri larghi, come si faceva a tutelare i cittadini in condizioni difficili se non tramite la Croce Rossa della Repubblica Sociale? Cioè era tutto un sistema tampone per sopravvivere giusto il tempo per veder finire la guerra, per certi versi. C'è stato anche il resto, sì, la grande politica, ma era una cosa oramai già in secondo piano. Oramai era la vita che contava, le cose molto comuni, molto semplici. Un'ultima cosa, cosa ne è stato dei diplomatici regi fuori dai confini? Ci sono stati atteggiamenti diversi. Alcuni in Giappone, presi dai giapponesi e veramente trattati in una maniera indegna, hanno tenuto fede al giuramento al re. Altri hanno tenuto fede al giuramento, come Paolucci di Calboli a Madrid, dopo aver telefonato e saputo che la Spagna riconosceva solo il regio governo, ad esempio. O come magistrati, cognato di Edda Ciano, che a Berna, tranquillo, ha aderito al governo del re. Altri, per contro, in paesi neutrali, senza nessun obbligo, senza nessun genere di imposizione, hanno aderito alla Repubblica Sociale, si sono presentati spontaneamente e hanno riconosciuto lì la loro Italia. Alcuni in condizioni particolari per la carriera che avevano alle spalle, altri per circostanze. Ne porto uno solo, indicativo, un unico. A Lisbona, l'addetto militare, il generale Vittorio Emanuele Terragni, decorato dal re di antica nobiltà piemontese, ufficiale monarchico, sa dell'armistizio per radio mentre ha una colazione con i tedeschi, momento di imbarazzo, e poi aderisce al governo Badoglio. Gli arrivano dei telegrammi che impongono la consegna agli anglo-americani di tutte le reti informative italiane, cioè denunziare gli italiani, i portoghesi e gli inglesi che hanno lavorato per l'Italia. Chiede nuove istruzioni a Roma. Due telegrammi, uno di Ambrosio e uno di Badoglio, ricostruire se necessario anche le reti distrutte e consegnare questi nomi. Quest'ufficiale non sa nemmeno cosa ci sia in Italia in quel momento, ma si stacca dalla regia legazione e appena viene a sapere che c'è un nuovo governo Mussolini ci aderisce. Chi lo obbligava? Sapeva che stava perdendo la carriera, lo stipendio, il suo futuro, tutto, però, come ha lasciato scritto in alcune carte, per l'onore di soldato non poteva consegnare gli informatori al nemico. Se avesse aderito a quest'ordine, che era legittimo, sarebbe rientrato in Italia e invece di 10 anni di carte bollate avrebbe proseguito la sua carriera. Grazie. Prego. Grazie. Ha la parola adesso Caiani e poi Scida. Questo fatto del salvare il salvabile in parte è stato un'ovvia autogiustificazione, a mio modesto avviso, per molti gerarchi della Repubblica di Salò, e un'ovvietà alla quale forse sarebbe interessante, proprio in questo contesto di ovvietà, rispondere con un'altra ovvietà, cioè che non va dimenticato che questi erano fascisti e ci credevano. Cosa significa poi crederci in certi momenti, appunto nel gennaio 45, quando probabilmente a un certo punto un irrigidimento mentale è una forma forse di identità e di sopravvivenza mentale, è un altro paio di maniche. Ma io vorrei tratteggiare brevissimamente un altro episodio, a mio avviso interessante per capire la politica estera della RSI, e cioè il comportamento avuto da Anfuso e dagli altri funzionari dell'ambasciata di Berlino a proposito del trattamento dei militari internati italiani. Perché a mio avviso è un esempio molto interessante non solo della totale subalternità dei funzionari della RSI ai funzionari tedeschi in quel momento, una subalternità tale che certe volte per chi, pur certo non con animo favorevole nei loro confronti, ma chi legge certi documenti a volte ha proprio un senso di scoramento e di pena, perché sono in una condizione veramente assolutamente deprimente. Però nonostante questa loro totale inettitudine, incapacità e insignificanza, non va dimenticato che non hanno affatto salvato il salvabile in molti casi. Prendiamo appunto il caso degli internati militari italiani. Il primo scopo dei fascisti è quello di farli aderire. Fanno il possibile, arrivando fino al ricatto, per costringerli ad aderire. Allora, io vorrei sapere se si può parlare di salvare il salvabile di fronte a funzionari della Repubblica di Salò che vanno nei campi di internamento e dicono: o voi aderite, tornate in Italia, ed era un'offerta non da poco, soprattutto a gennaio 44, dicembre 43, quando faceva freddo assai e non si mangiava. Cioè, o voi aderite e tornate in Italia, oppure restate qui a marcire nei campi. E per essere ancora più convincenti, a coloro che aderivano, e che non sono mai stati molti, tranne alcuni casi, a coloro che aderivano venivano immediatamente date delle razioni alimentari molto abbondanti. Naturalmente questi venivano separati da un piccolo filo spinato dagli altri, così gli altri si morivano di fame e vedevano come gli altri mangiavano abbondantemente. Allora, questo a me sembra una forma di ricatto che difficilmente può essere inquadrata nella logica di salvare il salvabile. È un piccolo episodio, naturalmente si potrebbe andare molto oltre. Permettetemi di citare ancora una cosa. A un certo punto è evidente che questi internati militari italiani stanno morendo di fame. Stanno morendo di fame anche perché non ricevono ciò che ricevono tutti gli altri prigionieri di guerra in mano tedesca, fuorché i russi, e cioè i pacchi della Croce Rossa Internazionale. La Croce Rossa Internazionale si dichiara pronta a mandarli, i tedeschi hanno alcuni problemi, poi alla fine dell'aprile del 1944 dicono ok, mandateli. In fondo, tutto sommato, ai tedeschi conveniva che questi italiani fossero meglio nutriti e lavorassero di più. Ebbene, perché i pacchi non arrivano? Perché Anfuso e gli altri delegati della Repubblica Sociale a Berlino non vogliono che agli internati militari italiani nei campi tedeschi giungano pacchi che abbiano le etichette alleate sopra, perché questa è una forma di propaganda negativa, in quanto sarebbe chiaro che questi uomini che si richiamano alla fedeltà al governo Badoglio non vengono assistiti da quel governo repubblichino che li vuole costringere ad aderire, bensì dagli alleati. E quindi in questo caso, e questo è assolutamente documentato dalle fonti della Croce Rossa Internazionale, in questo caso, laddove i nazisti erano favorevoli a una misura che possiamo valutarla opportunistica, ma che comunque avrebbe salvato la vita di un sacco di gente, per ragioni propagandistiche i funzionari dell'ambasciata di Berlino si rifiutano di far avere questi pacchi. Ora, se questo significa salvare il salvabile, francamente io non so come valutare la politica in questo caso. Ringrazio Grazie. Molto Caiani per questo intervento. Domani distribuirò una delle copie di una testimonianza antica di più di 20 anni fa del professor Cinzio Violante, che è membro di questo istituto anche, che purtroppo non ha potuto essere presente ai lavori, il quale è stato internato militare in campi di concentramento tedeschi e in cui vengono riportate con vivezza diretta e partecipata sulla propria pelle esattamente questo tipo di puntualizzazioni che ha detto, che adesso ha fatto Caiani. Quindi io credo che avevo promesso al professor Violante, che per la verità aveva una certa qual resistenza, insomma, a partecipare a questi discorsi che stiamo facendo oggi, che pure sono così importanti e necessari, avevo promesso che avrei fatto girare questa sua testimonianza e quindi credo che valga la pena domani di distribuirla per coloro che non l'hanno eventualmente ancora potuta conoscere. Wolfgang Schiede. Ja, ich habe auch einige Zweifel, ob dieser Ausdruck salvare salvabile wirklich angemessen ist. Was soll gerettet werden? Wer will was retten? Eigentlich, vielleicht wollen sie nur noch ihre eigene Haut retten, viel mehr ist es ja nicht. Aber das ist nur ein Nebengedanke. Ich wollte eigentlich sonst noch zu diesem Disegno europeo etwas sagen, von dem Sie gesprochen haben. Und die, man muss ja wohl sehen, dass es den schon einmal gab, bei Mussolini 1933 nämlich, bis 1934, 1935, als Hitler an die Macht kam und er versuchte, so den, einen Panfaschismo, den es vorher schon gab, plötzlich zu instrumentalisieren, auch mit einem europäischen Aspekt, also Gavelli, Asfro Gavelli, dann Koselski und diese Comitati di Azione Universale di Roma, CKU und so weiter. Das ist ja eine Instrumentalisierung, auch mit einem europäischen Anspruch, aber ganz entscheidend mit einem Führungsanspruch Mussolinis und des italienischen Faschismus. Während das, was Sie jetzt, die Texte, die Sie vorgetragen haben, ja auch die Reihe der Leute, die Sie aufzählen, das ist ja eine Liste der Kollaborateure in Europa gewesen, alles die Quislinge, die nur noch dabei sein sollen. Man kann das ja beinahe als eine Art von Unterwerfungsakt interpretieren unter die Führung Hitlers. Es ist doch ein, etwas ganz anderes, als ursprünglich Mussolini mit einem Disegno Europeo einmal gewollt hat oder glaubte, wollen zu können. Welche außenpolitisch-diplomatischer ist ja dasselbe die Sachen gewesen, aber hier im ideologischen Bereich eben auch. Und davon ist doch eigentlich jetzt keine Rede mehr. Eher passen Sie sich vollständig dem Führungsanspruch der Nationalsozialisten an, oder sehe ich das falsch? Grazie. Petersen, su questo ancora oppure su altro? Benissimo. Allora parola di nuovo. Diga no. Con Cagliani sono perfettamente d'accordo, infatti il caso degli internati è una cosa completamente a sé. Direi che è evidente che erano fascisti questi uomini, oramai, a parte questi casi particolari, l'adesione era data per partito. In quelle condizioni aderiva chi aveva proprio una convinzione ideologica profonda, salvo altri casi particolari dovuti a situazioni proprio locali. Ma in generale funzionari fascisti. Il caso degli internati è, ripeto, secondo me un caso a sé, perché sullo stesso piano, ad esempio, abbiamo per converso il tentativo nei confronti degli internati badogliani in Giappone di ottenere delle condizioni migliori di trattamento da parte dei giapponesi. E il Giappone risponde no, non se ne parla neanche, i badogliani restano là in quelle condizioni, se possibile ancora peggiori di quelle riservate dai tedeschi e agli italiani. Caso internati, tra l'altro lei penso sia molto più competente di me su questo, è complessissimo, perché da un lato la Germania sugli inizi proclama che questa gente è inutilizzabile come forza armata, reclutabile, però contemporaneamente accoglie, pur avendoli definiti indesiderabili, i volontari nelle SS, purché in uniforme tedesca, purché comandati da ufficiali tedeschi. Tanto che si fa presto strada l'idea in Italia che semplicemente si voglia indebolire il più possibile questo embrione o fantasma di esercito repubblicano, che se avesse 600.000 effettivi, ammesso che aderiscano, e questo è lasciato in sospeso, ammesso che aderiscano diventerebbe un esercito serio. Se invece si comincia a congelare quei 600.000, poi se ne prende altri 80.000 e li si manda in addestramento e non li si fa rientrare più in Italia neanche nell'autunno del 44, tanto che Mussolini deve scrivere «Caro Morera, io non voglio, famosa lettera, essere turlupinato né turlupinare nessuno, avevo promesso che questi sarebbero tornati in Italia». Ecco, allora si comincia a indebolire tutto l'apparato. Certo è vero che c'erano anche quelle questioni del simbolo sul pacco, la questione propagandistica che giocava e pesantemente. Contemporaneamente c'erano però, ed era generato questo anche da atteggiamenti contrari degli stessi alleati, che avevano rifiutato di mandare dei pacchi di soccorso alle isole dell'Egeo, che erano in condizioni finali proprio di sopravvivenza, solo perché venivano dal governo di Salò, pur attraverso una serie di intermediari. Cioè, certo che c'era anche un atteggiamento di rivalsa e di cruda ragione di Stato che hanno pagato come al solito i poveri diavoli che erano o morire di fame nell'Egeo o nei campi tedeschi. E nel contempo però ci sono stati, vede, la difficoltà di dare un quadro omogeneo è troppo diverso da zona a zona e da momento a momento. Quando si tratta di fare un'opera di carattere umanitario generale per tutti gli ebrei e gli apolidi che sono rinchiusi in Italia nei campi di concentramento in attesa di partire per la Germania, Gli alleati e il Vaticano via Berna cercano una persona che vada a Salò a chiedere al governo, al Ministero degli Interni, di mandarli in un porto dell'Adriatico dove verrebbero poi portati via da navi neutrali, e questa persona viene trovata, i documenti ci sono di questa missione che purtroppo fallisce, perché i tedeschi prima dicono è una faccenda che riguarda la Repubblica Sociale, però lo dicono una volta che hanno già evacuato tutta questa gente in previsione di questa richiesta di salvataggio. Cioè c'è una difformità di comportamenti, io adesso non mi sento francamente di poter tracciare qui un bilancio, ho solo potuto constatare, questo lo dico proprio con tutta umiltà, una enorme difficoltà di fare generalizzazioni e se non dopo aver consultato documenti, in questo momento sono ancora talmente indietro in questa consultazione che non mi sento di dire una parola definitiva, soprattutto su una materia sulla quale so lei essere molto più esperto di me sotto questo profilo. Certo ha toccato un nodo dolente, estremamente dolente, soprattutto quei poveri diavoli che non sono mai rientrati in Italia, ecco, questo senza dubbio. Sì, no, per quello dolente è tutta la questione in generale. Adesso generale. Io vorrei dire che complessivamente mi pare molto dolente tutta la questione della, così, di cui stiamo parlando, non solo questo degli internati militari, ecco. Questo ci tengo a sottolinearlo. Sì, è un periodo perché, che di per sé è cioè, un... ecco, noi siamo qui tutti coinvolti, italiani e tedeschi, cerchiamo di parlarne meglio che possiamo. Certo è stata una delle pagine più tremende, insomma, no, che insieme abbiamo scritto, di questo non si può dubitare. Alla parola Petersen. Ich wollte noch eine Reflexion anstellen zu dem Thema Salvare il salvabile. De Felice hat im Zusammenhang mit der Diskussion die Publikation von Pavonas Buch La Guerra Civile ausgelöst, hat darauf hingewiesen, dass die italienische Bevölkerung nach dem 8. September 1943, er hat das einfach mal quantifiziert und hat gesagt, zählt man mal die Intransigenten, überhaupt die politisch aktiven, engagierten Faschisten und Antifaschisten zusammen, dann kommt man maximal auf 1,5 Millionen der damaligen italienischen Bevölkerung. Die übergroße Mehrheit der Italiener hat in jenen Monaten nach dem September 1943 versucht zu überleben. Die primäre Vorstellung, von der die übergroße Masse der Bevölkerung, die Silent Majority ausgegangen ist, ist, wie schaffen wir es zu überleben. Und das ist ja praktisch fast die gleiche Formulierung, salvare il salvabile, Frage, wie schaffen wir es zu überleben. Ich habe mir daran in dem Zusammenhang die Frage gestellt, was sind eigentlich die Erwartungshorizonte? Und mir scheint, das wäre historisch eine wichtige Frage. Was sind die Erwartungshorizonte, von der aus die politischen, militärischen, ökonomischen Eliten damals ausgehen, die handeln, die wir hier also in den Dokumenten wiederfinden, und auch der einfache Mann auf der Straße? Und hier würde ich meinen, dass in der deutschen Seite, mindestens bei der militärischen und bei der politischen Elite, sozusagen gar keine Erwartungsstrategien vorhanden sind, die über den Zusammenbruch hinausgehen. Viele wissen wahrscheinlich, dass das zu Ende geht, dass das ein Kampf ist, den man nicht mehr gewinnen kann, Wunderwaffen hin und her. Irgendwann wird diese große, übermächtige Koalition diesen Krieg gewinnen. Wir versuchen sozusagen die Niederlage möglichst weit hinauszuschieben. Während mir scheint, dass bei dem politisch Handeln im italienischen Bereich eben die Frage ist, wie können wir es schaffen zu überleben bis zum Zusammenbruch, bis dieses System zusammengebrochen ist. Mir scheint, dass das historiografisch eine sehr wichtige Frage wäre, die man vielleicht stärker auch mit bei der Lektüre aller dieser Dokumente mit im Auge haben sollte. Mir sind vor Augen sehr viele deutsche Dokumente, in denen man als rückblickender Leser immer wieder überrascht und zum Teil auch entsetzt ist über die mangelnde Perzeption der Wirklichkeit damals. Das reicht wirklich, dieser Fanatismus der vieler dieser deutschen Dokumente reichen wirklich nur bis zum Zusammenbruch und nicht weiter darüber hinaus. Grazie. Ci sono interventi ancora? anche le altre due relazioni secondo me meriterebbero forse considerazioni, sia questa che ha fatto Stoia, in cui mi pare che questo problema proprio del salvare salvabile, della sopravvivere, che adesso richiamava Jens, è stato proprio, voglio dire, messo in pratica con, mi pare, pratiche, no, concrete di ostruzionismo, di burocratizzazione, che quindi direi anche da questo punto di vista forse Leopold Stoia potrebbe dire qualche cosa nella prospettiva che diceva Jens Pettersen, come pure nella relazione di Mantelli, forse quella prima, il primo richiamo di Pettersen, insomma, del cercare di misurare la distanza esistente fra il livello così normativo, no, e invece quello fattuale, concreto, mi pare che Mantelli aveva, sia pure nella fretta a cui era costretto nella esposizione, aveva portato qualche contributo. Io per esempio sarei contento se lui ci spiegasse meglio questo concetto che aveva esposto all'inizio, relativo al rapporto di forza, no, che esisteva fra le due situazioni, quella italiana e quella tedesca, anche prima del 43, così, non so, sto cercando insomma di mobilitare un attimo anche il vostro entusiasmo, non è vero? E quindi non lo so, c'è qualcuno che vuole intervenire anche sulle altre due relazioni, in modo che possiamo chiudere la discussione in maniera più globale? Se no do la parola appunto a uno di voi due, forse Mantelli. Io posso provare a dire qualcosa su questo tema che è stato accennato, del mutamento dei rapporti di forza tra Italia e Germania. In modo particolare io mi riferivo al passaggio con l'entrata dell'Italia in guerra, quindi a metà del 40, e poi più che altro con gli insuccessi dell'Italia belligerante in Grecia e in Nord Africa, quando cioè appare tutta la debolezza dell'alleato italiano, al fatto che grosso modo si passa da una situazione in cui questi due paesi di differente peso economico e di differente forza economica, però sono all'interno di un rapporto di alleanza e di interscambio economico su basi sostanzialmente paritarie come quella di pace. Tant'è vero che io per esempio avrei qualche riserva a dire che almeno fino al 39-40, da un punto di vista meramente economico, il rapporto Italia-Germania dentro l'asse è svantaggioso per l'Italia. Per esempio Giuseppe Tattara in un suo saggio sostiene che fino al 39, grosso modo, l'Italia a livello economico tra i due partner dell'asse, l'Italia è quella che ha un certo guadagno rispetto alla Germania. Questo perché? Perché funzionano meccanismi tipici di economia di pace. Facciamo un esempio. Nel senso che nelle richieste, sempre per prendere l'esempio che ovviamente io conosco meglio avendo studiato della manodopera, fino al 40 le richieste tedesche di manodopera all'Italia devono fare i conti pesantemente col vincolo valutario, cioè col fatto che essendo i rapporti fra i due stati regolati dai rapporti di clearing, a questo punto le rimesse finiscono nel clearing e creano un passivo tedesco e un attivo italiano. A questo punto cosa accade? Accade che proprio nel 39 il Ministero dell'Economia del Reich e la Devisenstelle, l'ufficio per le divise estere, invitano gli altri organi statali tedeschi a fermare l'arruolamento di manodopera in Italia per evitare un peggioramento, per evitare l'accumularsi di un eccessivo passivo. E quindi ecco che quello che è un rapporto fra i due stati viene governato da logiche sostanzialmente economiche, tant'è vero che dalla parte opposta Felice Guarneri è in grado di opporsi, il ministro degli scambi e valute è in grado di opporsi all'eccessivo accumularsi di un passivo tedesco, di un attivo italiano, che comportava, come detto, rallentamenti, ritardi nel pagamento alle aziende italiane che avevano venduto merci in Germania, per mancanza di fondi nelle casse di compensazione italiana, è in grado di minacciare ritorsioni e di attuare in parte ritorsioni nei confronti della Germania. Quindi il rapporto fra questi due stati in pace, anche dopo che la Germania è entrata in guerra, è un rapporto fra due alleati. Invece con l'entrata dell'Italia in guerra, con la debolezza che l'Italia dimostra quasi subito, con la richiesta immediata dell'Italia alla Germania di rifornimenti militarmente importanti, con la completa dipendenza per quanto riguarda le fonti energetiche che l'Italia ha dalla Germania, è nota per esempio che nel suo volume di memorie, ancorché discutibile, Favarossa scrive a un certo punto nel 41 abbiamo benzina per 15 giorni, abbiamo riserve di combustibile per le navi, la marina per 15 giorni, quindi o riusciamo a ottenere un rifornimento o se no si ferma tutto, insomma la marina non si muove più. In questa situazione qua in cui l'Italia ha bisogno di rifornimenti, ha bisogno di armi, a questo punto non è più in grado di opporsi a preponderante richieste tedesche sulla mano d'opera, ancorché per la prima volta le richieste tedesche nel 1941 suscitano il dubbio e tensioni negli ambienti industriali che non amano vedersi privare di mano d'opera qualificata. Quindi c'è una serie di segni di protesta, insomma, giudizi negativi, di leggero di critica, di paura negli ambienti industriali. Uno. In secondo luogo non è in grado di impedire che la Germania accumuli un passivo spaventoso nel FLIR e dichiara apertamente di non avere alcuna intenzione di ripianarlo, in quanto questo rappresenta, questo viene dichiarato nel comitato interministeriale presieduto da Clodius che si occupa dei rapporti con l'Italia, in quanto questo è il contributo italiano alla conduzione della guerra 1942. Cioè, quindi l'Italia si paghi i salari, le rimesse dei suoi operai, e questo è il suo contributo, non glielo salderemo mai, ben prima dell'8 settembre. Allora, questa è l'entrata dei nudi rapporti di forza all'interno di una dinamica economica più complessa come quella di prima della guerra. Aggiungo ancora una cosa che richiama, senza voler riaprirlo, il dibattito di prima. Quando nel 1942 c'è una richiesta di 36.000 minatori allo scopo di potere della Germania all'Italia, allo scopo di poter aumentare il rifornimento tedesco di carbone all'Italia, la reazione del Ministero degli Esteri di Roma è la seguente, sono alcuni documenti che dicono dobbiamo acconsentire. Sappiamo benissimo che per motivi legati alla mancanza di carri ferroviari, alle difficoltà dei trasporti, i tedeschi non riusciranno a darci 1.100.000 tonnellate al mese che ci hanno promesso. Arriveranno al massimo 900.000, poi in realtà sono anche un po' meno, nella realtà quelle cose andranno ancora peggio. Quindi in realtà noi potremmo, non è che mandando questi 36.000 lavoratori otterremo nulla, però questo sarà un modo per costituirsi benemerenze, documenti su cui giocare dopo la vittoria. Quindi questa è quella logica che tu hai evidenziato, c'è anche prima. Cioè, dobbiamo avere dei documenti in mano, poi sappiamo cosa se ne faranno questi documenti, come è noto. Quindi questo è quello che dicevo quando intendevo parlare di una prevalenza dei nudi rapporti di forza militare.